It's time now to hear all the dialogues from Unit 1 again, from the moment Lorenzo introduces himself to Sarah to the moment when they arrive at Sarah's hotel. Some of the English words have been omitted, but with all the Italian you've learnt so far, you should have no problem understanding exactly what's going on. All'aeroporto di Firenze. Scusi, lei è della Top Qual? Top Qual, yes. Allora, è la signorina Jenkins, vero? That's me. Buonasera e benvenuta a Firenze. Sono Lorenzo Conti, di Italia Bella. Oh, yes, Italia Bella. What's your name again, please? Mi chiamo Lorenzo Conti. Conti? Esatto. Do you speak English, Mr. Conti? Sì, un po'. Good, because I don't speak Italian. Per niente? Va bene, non importa. L'italiano è facile, per fortuna. I don't understand. Si dice non capisco. I don't understand. I understand, capisco. Ok, capisco. Brava! Italian is very easy, signorina Jenkins. Ma come si chiama di nome? Your first name? Sarah. Ah, Sarah. Allora, piacere, Sara. Sorry? Che significa piacere? Significa pleased to meet you. Oh, well, piacere Lorenzo. Ha fame? Vuole mangiare qualcosa? Oh, I'm a bit tired. Ah, scusi, sì, è stanca. How do you, come si dice thank you? Si dice grazie. Then grazie. Di niente. E questa è la sua valigia? Sì, grazie. Andiamo all'albergo.